Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Yemen riapre l'ambasciata americana, oggi il vertice da Obama. Il nucleare iraniano, secondo la Cina, ancora margini diplomatici. L'appello di Napolitano e Fini, l'Italia deve riscoprire il senso nazionale. Berlusconi sia segreto di Stato sui rapporti tra servizi e Telecom. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, dalla redazione di Radio 24, il Sole 24 Ore. In primo piano la riapertura dell'ambasciata americana nello Yemen e il vertice di questa sera su sicurezza e terrorismo di Obama. Ha riaperto i battenti l'ambasciata americana a Sanaa, capitale dello Yemen, rimasta chiusa due giorni per le minacce di Al-Qaeda. La decisione di riaprire è stata presa all'indomani delle operazioni antiterrorismo condotte dalle forze di sicurezza yemenite, si legge in un comunicato, in cui si sottolinea che le minacce di attacchi terroristici contro gli interessi americani restano elevate. Oltre a quella americana hanno riaperto anche le ambasciate britannica e francese. Fonti diplomatiche dei due paesi hanno spiegato però che restano chiusi al momento i consolati. E mentre nel paese arabo prosegue la caccia ai capi della fazione qaedista ritenuta responsabile del fallito attentato al volo Delta Amsterdam-Detroit il giorno di Natale, a Washington Barack Obama riunisce oggi i responsabili di intelligence e sicurezza per fare il punto sulla lotta al terrorismo e sulle falle nella sicurezza degli aeroporti. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E la sicurezza è stato il tema del nostro sondaggio. Un fallito attentato sui cieli americani, il presidente Obama che oggi riunisce gli esperti di sicurezza promette decisioni drastiche, aeroporti di mezzo mondo in attesa di adottare nuovi sistemi di sicurezza stringenti per combattere i terroristi. Sembriamo ripiombati in piena emergenza post 11 settembre 2001. Ma il mondo, secondo voi, è più sicuro di allora sul fronte del terrorismo? I nostri ascoltatori, forse contagiati da una paura esagerata, dicono di no. Il mondo non è più sicuro e lo sostiene il 79% di voi. Paure che il ministro agli esteri Franco Frattini respinge. Viviamo in un mondo più sicuro. Lo stesso Frattini dice sì ai body scanner negli aeroporti, quei metal detector che mettono a nudo i viaggiatori per vedere se nascondiamo qualcosa. Io dico, la privacy delle persone è un diritto assoluto ed inviolabile, ma il diritto alla sicurezza, cioè il diritto di non saltare per aria, è la precondizione di tutte le libertà. Quindi a tutte le persone che legittimamente dicono ma la mia privacy, lo capisco, è un sacrificio, ma è un sacrificio a mio avviso che vale la pena. Bianconero torna domattina alle 8.30 e per votare basta andare su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La Cina ritiene che la comunità internazionale abbia ancora dei margini per gli sforzi diplomatici per comporre la crisi sul programma nucleare dell'Iran. Ne ha parlato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, una Cina che ha buoni rapporti con l'Iran, lo ricordiamo, che è uno dei suoi principali fornitori di petrolio, anche se nelle ultime occasioni Pechino ha approvato le sanzioni proposte dall'ONU. Ora veniamo alla politica, perché dopo il discorso della fine dell'anno il presidente Giorgio Napolitano è tornato a parlare di riforme, in qualche modo guardando soprattutto alle forze politiche, un nuovo appello. Questa volta peraltro la novità non è solo che l'appello è di Napolitano, ma è un appello quasi congiunto tra Napolitano e il presidente della Camera Gianfranco Fini, un appello alla coesione sociale. Sono in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì Daniele, proprio così, dopo le liti all'interno e all'esterno degli schieramenti in vista delle regionali, arriva un appello alla coesione da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e da quello della Camera Gianfranco Fini. Il monito è quello di non smarrire il senso del comune interesse nazionale, pur nel rispetto della libera dialettica di posizioni e di ruoli tra maggioranza e opposizione. Napolitano interviene a Napoli durante la commemorazione di Enrico De Nicola, il primo Presidente della Repubblica, 50 anni dalla scomparsa. scomparsa. Un esempio, dice Napolitano, per il supremo e tenace attaccamento alla necessità di un clima di unità nazionale, una lezione dalla quale abbiamo ancora molto da imparare. Per Gianfranco Fini, De Nicola ha lasciato un prezioso insegnamento sulla via di un rinnovato senso di coesione nazionale, sulla riaffermata appartenenza di tutti gli italiani alla stessa comunità nazionale. Un monito, quello di Fini e di Napolitano, proprio alla vigilia di una possibile intesa sulle riforme istituzionali tanto auspicate dal Presidente della Repubblica, e quindi vedremo che cosa succederà. Daniele, a te la linea. Sì, grazie Elisabetta. E tutto questo discutere di riforme, di coesione sociale, di appelli, molti auspicano che il 2010 sia finalmente un anno forse più tranquillo, ma non ne siamo direi certi. Ci sono le elezioni regionali. Elezioni regionali, pochi secondi fa si è appreso che sarà Emma Bonino la candidata alla presidenza della Regione Lazio per la lista Bonino-Pannella. Questo potrebbe ingarbugliare ancora di più le vicende per quanto riguarda il centro-sinistra. Lo ha annunciato la stessa parlamentare nel corso di una conferenza stampa nella sede romana dei Radicali, a cui hanno preso parte anche lo storico leader Pannella e il presidente dell'associazione Luca Coscioni. E allora vediamo invece di capire che cosa sta succedendo tra i centristi, perché l'UDC di Pier Ferdinando Casini rischia di diventare l'ago, il vero ago della bilancia tra i due schieramenti. In diretta Savino Gallo. Sì, buongiorno dalla sede nazionale dell'UDC in via Due Macelli, dove dalle 11.30 è in corso la riunione tra i vertici e i rappresentanti pugliesi del partito. Presenti, oltre al presidente Casini e al segretario Cesa, anche Buttiglione, Pezzotta e il vice segretario Tassone, assieme a tutti i deputati e i dirigenti provinciali della regione Puglia. Con loro Casini cercherà di sciogliere le riserve sulle alleanze in vista delle prossime elezioni regionali. Come noto, i centristi hanno posto un veto sulla candidatura del governatore Nichi Vendola. Dopo l'uscita di scena di Emiliano, il PD ha così dato mandato all'onorevole Francesco Boccia di verificare se ci siano le condizioni per una sua corsa alla presidenza. Condizioni che dipendono anche dall'appoggio dell'UDC, anche se solo tre giorni fa Casini aveva definito quella di Boccia una candidatura debolissima. In ogni caso, l'alleanza tra PD e UDC si giocherà sull'eventuale marcia indietro di Vendola. Il governatore uscente sembra essere intenzionato a non rinunciare alla sua candidatura, e se così dovesse essere, per i centristi si aprirebbe la strada ad un'alleanza con il PDL a sostegno di Adriana Poli Bortone. E da Roma è tutto. Grazie a Savino Gallo. E intanto stanno uscendo un po' tutte le notizie che riguardano le regionali. Avevamo parlato già dei radicali che candidano la Bonino nel Lazio e candideranno Oliviero Toscani alla presidenza della Regione Toscana, altro importante personaggio conosciuto, fotografo e uomo di immagine. E allora veniamo all'altra notizia politica di oggi, cioè il processo sui dossier illegali Telecom. Il segreto di Stato sui rapporti tra Sismi e Telecom, come anticipato dal Corriere della Sera, il Premier ha confermato il segreto, anche se parziale, sollevato in tribunale a Milano da uno degli imputati, cioè Marco Mancini. Palazzo Chigi conferma: sui rapporti tra Sismi e Telecom c'è il segreto di Stato e per questo non se ne può parlare neanche in un'aula di tribunale. Con una lettera Silvio Berlusconi ribadisce il vincolo di segretezza sollevato da Marco Mancini, ex numero 2 dell'intelligence militare, accusato nel processo sui dossier illegali Telecom di associazione a delinquere, corruzione e divulgazione di notizie coperte. Dovrei riferire fatti relativi alle attività del Sismi, ai tentativi di penetrazione informativa da organismi di spionaggio stranieri, al contrasto di dubbie operazioni finanziarie di istituti di credito islamici, alle attività del Sismi nei confronti di appartenenti a logge massoniche segrete, aveva scritto Mancini nell'istanza con cui il 13 novembre oppose in aula il segreto di Stato, denunciando la sua impossibilità di difendersi, così come già fatto nel processo a Buomar, da cui è stato prosciolto proprio per improcedibilità. A quel punto il giudice Mariolina Panasiti sospese l'udienza preliminare preliminare inviando gli atti a Palazzo Chigi, che ora, prima della ripresa il 1 febbraio del processo, ha risposto confermando il segreto. Negli atti di Mancini parla soprattutto l'investigatore privato Emanuele Cipriani, fornitore della ex Security Telecom di Tavaroli, ma anche su questi rapporti lo 007 solleva il segreto perché, scrive Mancini, dovrei svelare le direttive impartitemi dal capo del servizio, il generale Nicolò Pollari. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio nel questo momento stanno uscendo le notizie che avete in qualche modo sentito già nel nostro servizio, questa nota del Presidente del Consiglio con riferimento ai termini con cui la stampa odierna dà notizia della conferma da parte del Presidente del Consiglio del segreto di Stato opposto dal dottor Marco Mancini al giudice per udienza preliminare del Tribunale di Milano. La Presidenza del Consiglio precisa in una nota che la tutela del segreto attiene agli atti di quel processo solo in quanto riferibile alle relazioni internazionali tra servizi di informazione e agli interna corporis degli organismi informativi. E questo il comunicato ufficiale che sta uscendo proprio in questi secondi della Presidenza del Consiglio. Allora, ora veniamo alle indagini sull'attentato contro il Tribunale di Reggio Calabria. Non c'è alcuna possibilità di riconoscimento delle due persone che hanno compiuto l'attentato contro la Procura Generale di Reggio Calabria. A riferirlo sono stati oggi i carabinieri del reparto operativo che stanno svolgendo le indagini sull'attentato, smentendo così quanto riportato stamani da alcuni giornali. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso non hanno ripreso infatti il volto degli attentatori che indossavano caschi integrali. A questo si aggiunge il fatto che la targa dello scooter col quale i responsabili dell'attentato sono giunti sul posto risulta contraffatta e non è quindi distinguibile. Sempre riguardo le modalità esecutive dell'attentato, i carabinieri parlano di un gesto dimostrativo, a prescindere dalla reale pericolosità dell'azione, per lanciare un preciso messaggio all'ufficio della Procura Generale in relazione ad alcuni procedimenti pendenti. Un'intimidazione dunque diretta ai magistrati che si stanno occupando dei processi in appello contro affiliati all'Andrangheta e soprattutto dei ricorsi sui sequestri e sulle confische di beni disposti in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Sentiamo la nostra intervista al procuratore Salvatore Di Landro. Se non fosse così già avremmo avuto due cadaveri. Nessuno si sarebbe mai permesso di fare un atto del genere senza il placet delle altre cosche, quantomeno regine, perché il segnale è molto forte, sono venuti a cercarci. Non hanno messo la bomba di fronte al Palazzo di Giustizia e poi le modalità mafiose denotano che c'era una struttura che ha organizzato il tutto. Certamente ci sarà stato un summit, qualcuno che ha consigliato sentito che venisse questo messaggio per tutta una serie di ragioni. Ormai in appello non si può fare più il patteggiamento. Secondo lei questa calma apparente negli ultimi momenti è stata favorita anche da ampie zone grigie? Per quanto riguarda i magistrati lo escludo categoricamente, lo stesso posso dire per il personale. Due anni fa, poco dopo l'insediamento del nuovo procuratore Pignatone, fu trovata una microspia nell'ufficio del dottor Gratteri con una potenzialità di ascolto che era limitata a quella degli uffici giudiziari. La mela marcia ci può essere in qualche ufficio, però isolata. 13-16 minuti 57 secondi, nella prima parte abbiamo parlato di Yemen e la riapertura dell'ambasciata americana e del vertice di questa sera di Obama, di nucleare iraniano che secondo la Cina ci sarebbero ancora dei ampi margini diplomatici, dell'appello di Napolitano e di Fini congiunto l'Italia deve ricoprire un senso nazionale e Berlusconi sia il segreto di Stato sui rapporti tra servizi e telecom. Nella seconda parte invece il premier greco Papandreou ha invitato i responsabili economici del governo ad accelerare l'attuazione delle misure per portare il deficit di bilancio sotto il 3% entro il 2012. Finora il governo aveva indicato di voler portare il deficit sotto il 3% nel 2013. Dopo un vertice fra Papandreou e i ministri dell'economia, quest'ultimo, Papa Costantiniu, ha detto ai giornalisti che il Premier li ha invitati a prendere prima possibile misure necessarie per stabilizzare l'economia nei prossimi 3 anni. Intanto in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una nuova formula di contratti di innovazione tecnologica che, attivando investimenti per circa 2 miliardi di euro, favorirà la ricerca applicata, stimolando nuove opportunità di lavoro per oltre 30.000 ricercatori. Il ministro Scajola ha firmato questa mattina il decreto ministeriale che dà via libera a tutti questi nuovi contratti. Ad un mese di distanza dal vertice in cui Sergio Marchionne ha presentato il piano per gli stabilimenti italiani, Fiat, sindacati e governo dovrebbero incontrarsi di nuovo probabilmente il 20 gennaio. Finfiom e Wilm aspettano la convocazione di Scajola, ma nel frattempo valutano l'ipotesi di uno sciopero generale dei lavoratori del gruppo per l'avvertenza di Termini Imerese. Oggi a Torino il primo appuntamento tra le segreterie nazionali dei sindacati e l'azienda. Si parlerà dell'entità del premio di risultato 2010, dei permessi sindacali, ma sarà probabilmente anche l'occasione per ritornare sui tempi più caldi. Sprint di vendite per il mercato dell'auto in Italia a dicembre. Grazie agli incentivi in scadenza, le immatricolazioni sono salite del 16,7%. 2009 si è chiuso con un bilancio in pareggio, meno 0,17%, positivo l'anno di Fiat, che ha messo a segno un rialzo del 2,7%. Ma in Italia il mercato avrebbe potuto andare meglio se gli incentivi fossero stati applicati anche alle auto aziendali, come spiega Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti. In Italia, pur nel risultato in parte inatteso, se non che negli ultimi mesi era largamente preventivato un andamento di questo tipo, è stato in parte reso non totalmente positivo dal fatto che sono rimaste penalizzate dalla politica fiscale governativa generale e dalla legge sugli ecoincentivi gli acquisti di vetture destinate alle società, in particolare al noleggio. Paradossale che il privato potesse, per un utilizzo di poche migliaia di chilometri l'anno, sostituire la vecchia vettura con una a GPL o a metano perché aveva dei sostanziosi contributi, mentre invece una società di noleggio non poteva presentare un'offerta sul metano perché non godeva essa del contributo che invece il privato aveva per 3.500 euro. Se avessimo avuto un correttivo a favore della politica di immatricolazione delle società del noleggio, probabilmente avremmo avuto un dato molto simile a quello francese. E ora voltiamo pagina, parliamo di energia nucleare. Qualche giorno fa, il 31 dicembre, con il voto sulla finanziaria, è arrivato il no secco della regione Campania a impianti di produzione, distribuzione e stoccaggio delle scorie. Ieri sul suo blog a rincarare la dose è stato lo stesso presidente Bassolino, che difende la norma campana e sottolinea che ci sono forti dubbi di costituzionalità invece sulla legge nazionale 9909, che affida al governo la definizione di un piano per l'individuazione dei siti, perché la legge delega è stata approvata senza il parere della conferenza Stato-Regione. Infatti su questo pende un ricorso alla Corte Costituzionale di molte regioni. Paolo Piacenza ha intervistato su questo tema l'assessore regionale all'ambiente della Campania Walter Ganapini, in passato membro dell'autorità per la sicurezza sulle scorie nucleari. Siamo profondamente convinti che sia il mercato che rigetta questo tipo di scelta. Lo dice Goldman Sachs, lo dice Financial Times, lo dice Angela Merkel quando dice nessuna nuova centrale, lo dice Obama medesimo, lo dimostra l'esperienza di Bush. Bush aveva detto 20 nuove centrali nucleari durante il mio mandato, di mandati ne ha avuti 2, e l'unica centrale in costruzione negli Stati Uniti è di una compagnia pubblica della Tennessee Valley Authority e non è ancora completata. Secondo il Financial Times, investire nel nucleare per i privati è in generale unattractive, non attraente, e in assenza di pubblici sussidi diventa prohibitive. Sono termini che indicano da sé lo stato delle cose. Lo sappiamo da sempre che è così. L'attuale tecnologia nucleare è carente sul piano della sicurezza e dell'affidabilità di gestione. Ecco, l'altro aspetto che sembra preoccupare la regione è il sospetto che il governo voglia utilizzare l'ex sito di Garigliano per stoccare delle scorie, è vero? Io non ho mai accettato né mai incentivato atteggiamenti che si chiamano NIMBY. Sono peraltro convinto che le politiche energetiche debbano avere una valenza strategica nazionale. Tutto questo non significa però operare, come dire, militarmente. E quindi occorre avere una consultazione seria col territorio e tenere conto dei vincoli. La regione Campania è la regione più dissestata d'Italia sul piano del dissesto idrogeologico, della sismicità, della esondabilità dei corsi d'acqua. Nei prossimi giorni il mondo dell'elettronica di consumo si riunisce a Las Vegas per la più importante fiera del settore, ma oggi Google anticipa tutti. Dovrebbe essere, come sempre, una conferenza stampa molto sobria, in perfetto stile Google, quella che oggi svelerà i primi dettagli del Nexus One, il primo telefonino smartphone dell'azienda americana. Finora Google si era limitato, si fa per dire, a lanciare il sistema operativo Android, che fa funzionare oramai un vasto ventaglio di telefonini, da Motorola ad HTC, da Samsung ad Acer. L'annuncio di Big G arriva alla vigilia dell'apertura, il 7 gennaio a Las Vegas, della più importante fiera dedicata all'elettronica di consumo, il Consumer Electronics Show. E se il mese di gennaio comincia con grandi novità, anche la fine non dovrebbe essere da meno. Fra tre settimane, il 27 gennaio, Apple dovrebbe svelare il piccolo computer touchscreen di cui si parla in rete da mesi. Enrico Pagliarini, GR24, il Sole 24 Ore. Parliamo di calcio, domani riparte il campionato, dopo la pausa natalizia sono tante le novità di inizio anno. Luca Toni, Goran Pandev, David Beckham, l'italiano, il macedone, l'inglese, quasi come nelle barzellette, solo che stavolta si fa sul serio. I più attesi sono loro, i nomi copertina di questo primo turno 2010 di Serie A, spalmato sull'intera giornata dell'Epifania. Da ora di pranzo, alle 12.30 c'è Chievo-Inter, ad ora di cena, alle 20.45 si gioca Milan-Genoa. Toni, l'italiano, si carica sulle spalle il peso dell'attacco della sua Roma in trasferta a Cagliari. Totti non c'è e tocca già all'ex attaccante del Bayern, che nella capitale ha già spezzato parecchi cuori, visto che si pensa di riscattarlo dai bavaresi. Pandev, il macedone, è arrivato solo ieri alla Pinetina e Mourinho già lo vede in campo domani al Bentegodi per un'Inter a trazione offensiva con Milito e Balotelli. Disfa le valigie e sei subito titolare. Al tecnico il colpo di magia era già riuscito con Snyder nel derby d'andata. David Beckham, l'inglese, ha già detto che è pronto a fare tutto, anche il terzino, pur di conquistare Leonardo e il CT inglese capello. Domani sera contro il Genoa farà il vice Pirlo dietro il tridente rossonero. Ed è già un bel esame. A proposito di esami, ne restano due a Ciro Ferrara. Se li supererà domani a Parma e domenica contro il Milan, la panchina della malconcia Juve di questo periodo resterà sua, altrimenti Hiddink diventerà molto più di un'ombra alle sue spalle. Massimo Di Scienza, GR24, il Sole 24 Ore. E ora una bella storia di sport al femminile. Sono Marzia Davide, ho 29 anni, nata classe 80, ho vinto i campionati italiani di pugilato quest'anno. Altro che Rocky, qui si parla di pugilato vero, di più pugilato in rosa, con vista sull'Olimpiade. Perché se campionesse come Simona Galassi e Stefania Bianchini hanno ormai dimostrato a livello professionistico che la boxing gonnella è una cosa seria, il sogno di Marzia Davide porta dritto a Londra 2012, dove la box femminile verrà inserita per la prima volta nel programma olimpico. Ci vogliono fatica e sudore per sperarci in questo sogno, però. Marzia, a Pontegnano, vicino Salerno, si divide tra ring e famiglia, tra gli allenamenti e l'asilo del figlio Giovanni Federico. Ma che vuoi che sia, per chi, ancor prima delle avversarie, ha già messo KO i pregiudizi nel mondo dello sport per maschi per eccellenza? Sta cambiando anche qui la mentalità. Infatti, diciamo, noi diamo l'esempio, siamo l'eccezione che conferma la regola. Quindi diamo un po' l'esempio a altre donne che devono diventare anche loro emancipate come noi. Dario Ricci, GR24, il Sole 24 Ore. Il 2010 sarà l'anno di un grande ritorno di due massimi protagonisti della musica italiana. Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare. I due vecchi marinai, dopo spericolata navigazione, sono tornati. Lucio Dalla e Francesco De Gregori, 30 anni in più e diversi capelli in meno, tornano insieme come ai tempi di Banana Republic, il mitologico tour per gli Stadi d'Italia che aprì la strada alla stagione dei concerti oceanici. Un successo clamoroso prodotto dalle reciproche diversità, anche fisiche, dei protagonisti. Lungo De Gregori, corto Lucio Dalla, raffinato allusivo il primo, animalesco e gigione il secondo. Due tipi un po' così, che riuscirono in un'irrepetibile impresa, far coincidere la canzone d'autore col gusto di massa. Un mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. 30 anni dopo, in un mondo assai cambiato, dove le star vanno e vengono da X Factor, i due marinai ci riprovano, divertendosi a lanciare piccoli segnali sui siti online. L'appuntamento è a Nonantola, in provincia di Modena, il 22 gennaio. Il titolo, Work in Progress, è già un messaggio ai naviganti, un lavoro in corso d'opera nato dalla voglia di suonare ancora insieme. Poi sarà quel che sarà, ma sicuramente l'approdo finale sarà sorprendente. Che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole è 24 ore. Si intitola Another Day ed è un inedito di Michael Jackson cantato con Lenny Kravitz e scoperto a 6 mesi della sua morte. Si tratterebbe di un brano registrato nel 2003. È il terzo inedito di Jackson. Non è chiaro se Another Day sia destinato ad un'uscita breve sul mercato discografico. Secondo alcuni siti musicali fu proprio Kravitz ad accennare ad una collaborazione con Jackson per una canzone mai pubblicata. E con la musica di Michael Jackson vi saluta qui Daniele Biacchesi, quando sono le 13, 29 minuti e 18 secondi, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.